9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia. Oggi ci occupiamo, parliamo della nuova direttiva europea sul tabacco. Non è stata ancora approvata definitivamente. Il testo verrà discusso e votato in sessione plenaria dal Parlamento europeo il prossimo 9 e 10 settembre, ma che cosa prevede? Prevede la scomparsa dei pacchetti da 10 di sigarette, la copertura per il 75% del pacchetto con immagini shock, fronte e retro, scherza su Twitter con l'hashtag 9 in punto, Simone Bianco dice il 75% del pacchetto deve essere coperto da foto di calderoli dopo l'ammazza caffè, non è niente male. Tra le altre cose che sono previste, divieto di produzione, addirittura di vendita di porta sigarette che coprano o sostituiscano il pacchetto, l'utilizzo di alcuni tipi di sigarette elettroniche come prodotti medicali e quindi vendute solo nelle farmacie. Tutto questo ha un impatto su un mercato che in Europa vale 136 miliardi, che vale 14 miliardi di incassi per lo Stato in Italia e che, come dire, il fumo, come sapete, anche dei costi sociali e sanitari. Quindi ci sono delle questioni economiche e delle questioni di principio. Chi dice, e scuserete, io raramente prendo posizione, cerco di mantenere l'equilibrio, che c'è chi dice che basta con questo stato mamma, io sono tra questi, sono anche un fumatore, forse peserà questo evidentemente, e c'è chi dice invece, insomma, che questa è la via giusta da percorrere. Non vi faremo mancare però nella giornata di oggi un aggiornamento sulla vicenda Shalabayeva. La vicenda della donna e della bambina espulse dall'Italia, la moglie e la figlia del principale dissidente kazako, con modalità piuttosto oscure. Ce ne siamo occupati nella puntata di martedì, fateci dire con una punta d'orgoglio che vi abbiamo detto che questa vicenda avrebbe avuto delle ripercussioni politiche pesanti e le state vedendo, sono sotto gli occhi di tutti. Ci ritorneremo perché vi abbiamo promesso che ci resteremo addosso a questa vicenda, è una vicenda importante. Gli snodi sono fondamentalmente due o tre, insomma, le letture che si possono dare. Allora, il ministro dell'interno e il ministro degli esteri sapevano chi era questa donna che stava per essere espulsa dal nostro paese, ed è grave, o il ministro degli interni e il ministro degli esteri non sapevano, e questo è altrettanto grave, perché evidentemente ci sono delle strutture interne al ministero o che loro non sanno governare o che sono abituate a muoversi al di fuori dell'ambito, come dire, del rapporto con i ministri. Quindi su questa vicenda torneremo tra poco. Però, soprattutto in questa prima parte della trasmissione, la cosa sulla quale vi voglio sollecitare all'800 24 00 24, oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, è esattamente questo, la direttiva sul fumo. Da che parte state? Tu non fumi, no? No, ho smesso. Grazie al cielo, neanch'io. Un taglio netto. Basta veleno, ormai sono 25 anni. Ah, mio Dio. Finito. Sono pieno di energia. Oh, io sono rinato. Poi da quando ho smesso, insomma, tutto è più... Sì, è tutto più a fuoco, pazzesco, è vero. È vero? Per me è uguale. Che pena mi fanno quei coglioni. Che si affumicano cervello e bronchi. Non hanno forza di volontà. Sempre col ciuccio. Sai cosa? Il bello è quando si smette che... è che avendo smesso, posso anche fumarne una. Perché ho smesso. Capisci? È un fatto ornamentale, non è mica... non l'aspiro nemmeno. Perché non mi tieni compagnia? Perché no? Sì, tanto ho smesso anch'io. Certo, sì, l'essenziale è smettere, okay, poi una te la puoi fumare, no? Adesso posso, no? Come no? Ok. Ecco. Ah. Oh... la faccia. Salute, eh? Sì, adesso hai capito cosa vuol dire smettere. Mm-hmm. Film è meraviglioso, una serie di 11 cortometraggi, era Coffee and Cigarettes di Jim Jarmusch, e questo era un dialogo, pensate un po', tra Iggy Pop e Tom Waits. Girolamo Sirchia, ex ministro della salute, padre della legge che vieta il fumo nei locali pubblici, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, ma non è un po' troppo vietare addirittura la produzione e la vendita di porta sigarette che coprano o sostituiscano il pacchetto? Guardi, l'orientamento della direttiva è fondamentalmente centrato sul divieto di pubblicità, quindi il contrasto alla pubblicità del tabacco, quindi delle sigarette. E quindi puntano molto su questa cosa delle immagini sui pacchetti, e quindi quello che copre queste immagini evidentemente va in contrasto con questo intendimento. Ma io francamente non sono così convinto che le immagini, so che vado controcorrente, ma non sono così convinto che le immagini sui pacchetti rappresentino quel pericolo che la direttiva identifica così duramente. Credo che c'è ben altro da fare, insomma, prima di. Però le direttive europee, come sempre, devono tener conto delle varie sensibilità nazionali, quindi sono sempre delle cose che mediano delle posizioni dei singoli. E questo ben altro, lei in cosa lo identifica? Ma guardi, io sono convinto innanzitutto che bisognerebbe applicare la legge esistente in maniera più ferma, diciamo così. Oggi sappiamo benissimo che si riprende a fumare negli uffici, soprattutto negli uffici pubblici, si fuma nelle discoteche, cioè, e quindi i controlli sono venuti meno. E questa è la prima cosa che ripristinerei, è inutile andare a inventare cose che difficili quando ci sono quelle già pronte da applicare. Quindi comincerei dai controlli, le ASL non controllano assolutamente niente, pochissimo, le forze dell'ordine sono assenti o quasi, e quindi cominciamo a far valere la legge che è in vigore, poi da lì si va oltre, si continua a fumare nelle scuole, negli ospedali, cominciamo a riconsiderare la vergogna di vedere infermieri e medici che fumano davanti ai pazienti ai quali suggeriscono di smettere di fumare, anzi non nemmeno suggeriscono, perché purtroppo la classe medica è carente anche in questo. Ecco, diciamo, cominciamo dalle cose più normali. È vero, la pubblicità è certo l'anima della vendita, no? Sappiamo bene, ma non è quella la pubblicità pericolosa, è quella dei film dove si continua a far vedere gente che fuma. Però continua questa storia. Ne abbiamo appena trasmesso un brano cominciamo a far valere il buon senso prima di andare ad arrampicarci sui vetri. Quindi non le piace questa direttiva? Mi aspettavo una posizione diversa da lei, un po' più. No, ma non è che non mi piace, per carità, tutto fa. Però ecco, alcune parti della direttiva secondo me non passeranno, ad esempio il fatto di eliminare gli additivi dal tabacco presumo che non passerà, perché va contro gli interessi veri, quindi eliminare gli additivi dal tabacco vuol dire rendere disgustoso il tabacco, e quindi è chiaro che questo non passerà. Allora, se la direttiva si centrasse su quello io sarei favorevolissimo. Ma invece no, si centra su argomenti minori, diciamo, tutto è importante, ma è minore. Cioè l'eliminazione dei pacchetti slim, sì, è importante, ma non delle sigarette slim, è importante, ma non è vitale. Mentre i suggerimenti miei, secondo me, sono incisivi. Cioè, se uno va lì e i controlli li ripristina come era all'origine, le assicuro io che le cose cessano, perché quando arrivano le multe la gente si adegua subito, e questo è il rispetto degli altri. Il rispetto degli altri è non fumargli in faccia, non fumare sulla spiaggia, non ficcare i mozziconi nella sabbia. E questa è l'educazione che si deve dare, che lo Stato secondo me ha il dovere di imporre, perché il mozzicone che mi trovo in spiaggia mi dà fastidio, allora non capisco perché uno debba fumare e invece di metterlo nel suo portacenere portatile me lo debba ficcare nella sabbia dove io poi mi stendo e ci trovo la sigaretta. Quindi lei dice, allora tutto fa brodo, ma insomma questa cosa qua non è una roba fondamentale, non è una roba essenziale. Tranne gli additivi, quello sì. Quello sugli additivi sì. Allora, su questa vicenda sta facendo una campagna forte da qualche tempo un'associazione che si chiama Save the Choice, sottotitolo Scegliere è un mio diritto. Da là poi abbiamo pescato qualche giorno fa un'intervista che loro stessi hanno realizzato con Chicco Testa, che saluto, buongiorno. Manager, presidente di Assoelettrica, qua come in realtà fumatore, uomo di libero pensiero. Buongiorno Testa, dunque. Buongiorno. Allora, che cosa pensa di questa direttiva? Io devo dirle la verità, dalla mia posizione la cosa più folle è quella del divieto di produzione e vendita delle coperture dei pacchetti, però insomma anche sul resto si può. Ma guardi, allora, ci sono tre livelli di discorso, cerco di essere molto sintetico. Primo, che il fumo faccia male lo sappiamo tutti e credo che se domandiamo a 100 cittadini italiani secondo lei il fumo fa bene o fa male, 99 su 100 sono perfettamente coscienti del fatto che fa male. Quindi dal punto di vista dell'informazione il ministro Sirchi ha la sua guerra, l'ha vinta abbondantemente. Secondo, c'è un problema di fumo passivo e di cortesia del fumatore e siamo d'accordo, non devo fumare addosso alle persone, non devo fare tutte quelle cosine che Sirchi ha prima ricordato, ma diciamo è un argomento di buona educazione che potremmo utilizzare per mille altri comportamenti. No, purtroppo a me ci sono cose che danno molto più fastidio di quello che mette la sigaretta nella sabbia, no? Radio accese, urla, voce alta, eccetera, eccetera. No? No, terzo, ed è la questione più complessa, è relativa al fatto, ma un cittadino consapevole e cosciente, alla fine è libero di scegliere il suo comportamento o siamo obbligati ad essere sani da ogni punto di vista? Perché se questo è il principio, allora dovremo fare direttive su quanta carne si può mangiare, su quali cibi si possono assumere, su quanti bicchieri di vino si possono bere, quale forma devono avere i bicchieri con cui beviamo il bicchiere di vino o quanto grasso può essere contenuto nell'agnellino arrosto che mi sono mangiato l'altra sera. Trovo tutto questo uno sforzo senza senso che porta poi a delle aberrazioni, tipo, non so, proibisco il pacchetto da 10, beh, lo faranno da 9 o da 11. Proibisco la copertura delle sigarette e chi mi impedisce di comprare un porta sigarette e metterci dentro le sigarette, sa quei bei porta sigarette, sì, d'argento, sì, che si usavano una volta. No, ma insomma, sciocchezze senza fine. E soprattutto dico, ma con un'Europa che sta andando in malora, l'Italia malata tra i malati, ma questi burocrati che vivono in un iperuranio senza senso, ma non hanno di meglio di cui occuparsi? Allora, prima di andare dagli ascoltatori, ci sono un po' di telefonate già in linea, perché naturalmente l'argomento fa discutere, io ho una domanda, le chiedo di essere molto rapido, Sirchia. La mia domanda è questa. Nel momento nel quale l'Unione Europea dice che le sigarette fanno così male, ed effettivamente fanno male, lo sappiamo tutti, lo sappiamo anche noi fumatori, a questo punto non sarebbe il caso di vietarle definitivamente? Lei le vieterebbe? Cioè, se avesse in mano il pallino e dice, insomma, questa è una cosa che fa male, dà assuefazione, provoca delle morti, così come per altre sostanze che magari addirittura fanno meno male delle sigarette, a sto punto le vieto. Se avesse in mano il pallino le vieterebbe lei? Beh no, perché il proibizionismo ben noto che è un promotore del consumo invece che un restrittore. E siccome i consumi sono alti, è irrealistico pensare che da un giorno con l'altro tutti i fumatori debbano smettere per legge. Quindi il fumo viene tollerato dallo Stato perché non si può fare a meno, non si riesce a proibire la produzione e il fumo di tabacco. Quindi direi di no. Tollerato con discreti incassi. Adesso ci torneremo, voglio sentire Elena da Cagliari, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io fino adesso ho sentito un sacco di pasticci, perché il fumatore si difende in ogni caso, no? Dice quello che bisogna dire, che quanto grasso, eccetera. Basterebbe che un fumatore ogni tanto si rendesse conto di come sono i suoi organi, di che ha la pressione, cosa c'ha, che disturbi ha, e smetterebbe in un attimo. Mio marito è morto per il morto di Burger, non aveva ancora 60 anni. E le dico che forse non fumava neanche troppo. Io ho vissuto in un ufficio pieno di gente che accendeva l'altra sigaretta con la mozzicone della prima, tenendolo salata le labbra. Non ho preso mai il vizio del fumo. Quindi ognuno di noi si deve anche regolare, ma non pensi che il fumo faccia bene, mai. Perché poi... Però Elena mi scusi se la interrompo, però noi non stiamo dicendo questo, cioè si sta semplicemente ragionando sul fatto che nel momento nel quale sei informato, no, sulle cose che ti fanno male, che sono le sigarette e sono mille altre cose che ti fanno male, nel momento nel quale sei informato, insomma, non c'è bisogno di varare delle leggi ulteriormente restrittive. Assolutamente no, ci sono le leggi, però io dico... Basterebbe che anziché dargli del presenza, uno fuma in posto, allora le daranno una multa, non so, io ho 89 anni, quindi non sono molto in mezzo alla gente ormai, però basterebbe che gli dessero un volontariato a coatto negli ospedali, che tra l'altro serve, per fargli vedere come muoiono quelli che hanno avuto il vizio del fumo. Elena, stiamo perdendo la linea, probabilmente c'è un problema da questo punto di vista. Sentiamo Francesco da Pavia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, a me è piaciuto molto l'intervento del rappresentante della società degli uomini liberi, non ricordo né il nome della società né il nome della non è un rappresentante, non è un rappresentante, è Chicco Testa, fermo Francesco, allora non è un rappresentante, è Chicco Testa, è un manager ed è, l'ho definito come un libero pensatore, insomma, abbiamo convocato per questo, perché abbiamo visto un video là, ho visto alcuni suoi tweet in merito e insomma la posizione mi interessava, prego Francesco comunque. Chicco Testa come personaggio lo conosco, non avevo capito il nome proprio, chiedo scusa. Allora, ha fatto un intervento molto corretto al mio punto di vista, così come anche l'ex ministro Sica, direi che ha parlato abbastanza bene, però ha parlato da politico, non voglio essere offesa questa. Cioè, qua dobbiamo capire chi dice che cosa e in nome di che cosa si vogliono fare questi interventi, dal mio punto di vista, molto restrittivi. L'ex ministro dice lo Stato non può vietare perché sarebbe una violenza, una limitazione pesante della libertà individuale. Mi scusi ex ministro, ma allora perché una persona che vuole fumare non è libera di fumare? In nome di che cosa si vuole imporre il divieto assoluto? Io sono un ex fumatore, mio papà, ricollegandomi anche alla salute di Cagliari, è morto di fumo, quindi diciamo che ho anche un po' di coscienza storica per parlare del fumo e di sapere cosa porta il fumo. Credo che, come ha detto il signor Testa, tutti in Italia sappiano che il fumo fa male, non c'è nessuno così ignorante da non sapere che il fumo non fa male e non uccide. Se non si fa tutto in nome di un'Europa, e qua un po' mi viene da sorridere, perché l'ente che vorrebbe stabilire certe cose, l'Europa, sappiamo tutti che diciamo esiste sulla carta, quindi quando l'Europa, lontana da me cittadino italiano, vuole o pretende di prendere decisioni nei miei confronti, un po' di fastidio mi dà. Però detto questo, in nome della salute, bene, se questo riesce problema, a compattare il concetto, sì, Francesco? Grazie. Compatto, sì. Giusto. Se lo si fa in nome della salute, benissimo, uso un termine brutto ma efficace, schediamo i fumatori, un fumatore non paga, cioè meglio, il fumatore paga di tassa propria le spese mediche e questo non ricade sulla società, così perlomeno nessuno ha la scusa di farlo in nome del risparmio della spesa sanitaria per i poveri fumatori. Oh, grazie. Grazie Francesco, lei ha introdotto un tema interessante, perché anche quello che mi scrive Michele Pinto su Twitter, fumate quanto volete ma non fumatemi addosso e non fatevi curare il cancro dalla sanità pubblica. E molti altri anche su Facebook segnalano questa questione qua, e là il punto è ancora, ma insomma, in realtà i fumatori di tasse ne pagano parecchie. 9 in punto. Beh, Rowley fu la persona che introdusse il tabacco in Inghilterra. E siccome era uno dei favoriti della regina, la regina Bessie, così la chiamava, fumare divenne popolare perché di moda a corte. Sono sicuro che la vecchia Bessie ogni tanto si fumava un sigaro con Sir Walter. Una volta scommise con lei che avrebbe misurato il peso del fumo. Cioè, pesare il fumo? Esatto, pesare il fumo. Ma non si può fare. È come pesare l'aria. Sì, può sembrare strano, è come pesare l'anima di qualcuno. Pesare il fumo è quello che iniziamo a fare adesso, perché ci vogliamo occupare anche dell'aspetto economico. Franco Spicciarello, portavoce dell'Associazione Nazionale Fumo Elettronico, buongiorno. Buongiorno a lei. Oltre alla tassa che hanno piazzato sulle sigarette elettroniche, che lo Stato ha piazzato sulle sigarette elettroniche, c'è anche una parte della direttiva che riguarda voi, insomma, questo gruppo ormai sempre più nutrito di negozi che vendono sigarette elettroniche, no? Sì, assolutamente, è una parte della direttiva che stabilisce che qualora una ricarica di sigaretta elettronica presenti una quota anche molto bassa di nicotina, questa debba essere equiparata a un farmaco. Quindi ci troviamo di fronte a un doppio equivoco con lo Stato italiano, che ci considera sigarette tradizionali e ci tassa come tali, e dall'altra parte l'Europa che ci considera un farmaco. Peccato che la sigaretta elettronica non sia nessuno dei due. Voi quante persone occupate? Quante persone occupano le aziende associate a voi, i negozi? Guardi, in 18 mesi c'è stato un boom che ha portato all'apertura di circa 3.000 negozi ed oltre 5.000 occupati, più l'indotto che noi obiettivamente non siamo ancora neanche in grado di stimare, mentre invece lo Stato, tassando, pensa di riuscire a stimare, per quanto la ragioneria generale stessa, nella nota al decreto, dica che i numeri che ha presentato il governo stesso non stanno in piedi, è stato confermato dal servizio bilancio del Senato in una relazione che abbiamo letto proprio questa mattina. C'è un problema curioso di valutazione delle sigarette elettroniche, devo dire, Spicciarello, perché insomma, se da una parte qua continuiamo a dirci che non ci sono ancora dati certi, non si sa, fanno male, non fanno male, fanno bene, servono a smettere soltanto, oppure insomma possono diventare un'abitudine costante senza nessun problema, dall'altra parte appunto la Commissione europea e il Parlamento europeo tentano di farle diventare un prodotto medicale, appunto. Ma in realtà molto dipende dalla campagna mediatica che è stata spinta da molti interessi in questi ultimi mesi e che ha portato anche a un calo del fatturato medio dei negozi. Alcune cose certe ci sono: l'Istituto Superiore di Sanità ha stabilito che in una sigaretta elettronica ci sono oltre 4.000 sostanze tossiche in meno rispetto a una sigaretta tradizionale. Un articolo bellissimo del professor Veronesi uscito giovedì su Panorama, ma anche altri precedenti, confermano le stesse risultanze, che cioè è un dato di fatto: la sigaretta elettronica fa molto meno male di una sigaretta tradizionale. Non è un metodo per smettere di fumare e sicuramente fa meglio l'aria di montagna rispetto a una sigaretta elettronica, ma che faccia molto meno male e che aiuti anche le persone a star meglio è un dato di fatto. Anna Maria da Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ecco, in parte quello che volevo dire è stato detto da una vostra ascoltatrice, proprio un ascoltatore di recente. Comunque io sottolineavo il fatto che lo Stato è il solito ipocrita, perché da un lato specula tassando sigarette, giustamente, però e dall'altro poi si preoccupa di salvaguardare la salute dei suoi cittadini. Allora io non proibirei assolutamente le sigarette, perché come si proibisce la droga e questo innesca poi un mercato dell'illecito con tutto quello che ne consegue, però una certa azione di, così, di contrasto trovo che sia giusta, e soprattutto visto che ormai per effetto delle campagne contro il fumo e la salute, ormai tutti sanno l'incidenza negativa che il fumo ha sul proprio organismo, eccetera. Come diceva l'altro ascoltatore, chi poi è causa del suo mal pianga se stesso, quindi non ricorre poi al servizio sanitario, perché quello mi sembra un pochino esagerato che chi non ne ha assolutamente colpa debba farsi carico anche di chi incoscientemente si è autoprocurato un male che purtroppo anche da solo in certi casi colpisce. fallisce e sono un'ex fumatrice che però ha smesso. Allora, Anna Maria, chiarissima, io in questo però mi devo necessariamente far aiutare da appunto un ex ministro della salute come Girolamo Sirchia, perché devo dirle, Sirchia, che io ho trovato... Non ho trovato numeri univoci sul costo sociale del fumo da una parte e sulle entrate fiscali per lo Stato dall'altra, perché poi il ragionamento che si fa è sempre quello. Nel senso che le cifre sul costo sociale oscillano a seconda della fonte, a seconda del calcolo, a seconda del sistema di calcolo, delle variabili che vengono prese in considerazione, tra i 3 e i 7 miliardi di euro. Gli incassi per lo Stato da tabacco dipendono da se si prendono in considerazione solamente IVA e accise, oppure se si prende IVA e accise, naturalmente intendo quelle sul pacchetto, no? Nella parte finale, o se si prende in considerazione l'intera filiera. C'è uno studio di Ambrosetti, se non sbaglio, che indica, se non ero nell'intera filiera, un incasso per lo Stato di 14 miliardi. Quindi forse non è quello il problema, no? Ma guardi, cioè, i dati come sempre sono difficili da raccogliere e da analizzare, quindi a seconda di come vengono presi e analizzati si hanno risultati diversi. Cioè, lo studio americano per me è più importante, è uno che è stato fatto espressamente per valutare i costi del fumo e identifica in 3.000 in 3 dollari al giorno i costi sanitari e a circa altrettanto i costi sociali del lavoro perduto. Cioè, si parla di 6.000 dollari l'anno in danni alle imprese per dipendenti che fumano. Questo fa sì che alcune aziende in America oggi non assumano persone che fumano, ad esempio. Perché poi dovete mettere in conto le assicurazioni, tutto l'indotto del fumo, il tempo perduto, qui ci sono persone che ogni ora escono 10 minuti, un quarto d'ora per fumare, quanto ci costa questa gente? Ecco, vabbè, allora diciamo il costo, comunque io non credo che si possa dire che vince lo Stato o vince, cioè, sono discorsi che sostanzialmente non lasciano il tempo che trovano, è importante saperle le cose, ma io vorrei invece dire che la cosa importante, che qui non si discute mai, è che cos'è il principio di libertà. Tutti invocano principi di libertà, ma il principio di libertà di ogni cittadino, come si dice sempre, finisce dove comincia la libertà degli altri. Allora qui noi dobbiamo ricordarci che non possiamo ammettere che chi fuma danneggi altri. Allora, questo è il principio che regge tutta la convivenza civile, secondo me. Allora, se uno mi fuma addosso, non è tollerabile che io... Quindi lei dice sostanzialmente, l'importante è che uno non fumi addosso agli altri, poi per il resto faccia quello che gli pare. No, sono dell'idea che chi vuol fumare deve fumare, per carità, appunto perché è consapevole, è informato... glielo dicono mille volte al giorno, allora vuoi fumare? Benissimo, fuma, ma basta che quel fumo non mi crei un danno, né sulla salute né economico, questo è il principio. Allora, siccome questi danni ci sono, perché è chiaro che al di là del divieto di fumo nei locali chiusi, ci sono dei danni indotti, ad esempio il fumo in auto mentre si guida, crea dei danni ed è dimostrato. Allora, non si può consentire che uno fumi, accenda la sigaretta e poi gli cade la cicca addosso mentre guida. E questo è proprio un provvedimento che deve essere preso. Non si può fumare mentre si guida, così come non si può usare il telefonino. Lei vieterebbe il fumo in auto, sostanzialmente? Assolutamente, sì. Allora, sentiamo Claudio da Prato e poi torniamo da Chicco Testa. Claudio, buongiorno. Buongiorno, io... sostengo e mi permetto di portare un ausilio alle parole che ha detto il Ministro, semplicemente estremizzando l'esempio che ha fatto il Dottor Testa. Premetto che io sono uno statalista, direi quasi addirittura stalinista in certe cose, per cui direi, estremizzando l'esempio, che cosa direbbe il Dottor Testa se a un amante della velocità che ha appena massacrato 5-6 vecchietti che attraversavano sulle strisce presso un ospizio di per i vecchi, la risposta del guidatore fosse: ma a me piace andare forte. C'è qualcosa che non funziona nel discorso. cioè il ragionamento, non siamo persone isolate che vivono in una sfera di vetro ciascuna, siamo persone interdipendenti, quindi il discorso deve essere assolutamente interdipendente, dai. Allora le faccio rispondere subito, guardi, nemmeno... Chi contesta? Vabbè, non capisco che c'entri, siamo tutti d'accordo sul fatto che il disturbatore non deve disturbare altri. No, e quindi sta la sua buona educazione a rendersi conto di questo fatto. Ma sono altri argomenti che non capisco. Per esempio questa questione delle cure sanitarie. No, benissimo, se tu fumi, ti pigli una malattia, sono fatti tuoi. Ok, allora applichiamo lo stesso principio a tutti i malati di cirrosi epatica e di tutte le patologie che vengono portate al consumo dell'alcol. Applichiamo lo stesso principio a chi ha il colesterolo troppo alto perché non si occupa della sua alimentazione. Smettiamo di soccorrere quelli che vanno in montagna e hanno degli incidenti perché dovrebbero essere consapevoli del rischio che c'è. Smettiamo di curare chi ha incidenti d'auto perché ha stili di guida impropria, non è attento, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, vi rendete conto che l'applicazione di questi principi ai comportamenti umani in cui solo, diciamo, l'autocoscienza, la responsabilità può essere il discrimine e porta ad uno stato mostruoso? Ecco, anche il ministro Sirchia dice mi casca il mozzicone, ma scusi ministro, lei è mai entrato in un'automobile moderna? Tra sistema di alta fedeltà, speaker a viva voce, navigatore, internet, eccetera, eccetera, ci sono dentro l'automobile 1500 motivi di distrazione prima del gesto semplice di accendersi una sigaretta. Si è riusciti a pensare di fare una legge per vietare di fumare, trascurando il fatto che ben altro sono i pericoli che derivano da un'automobile moderna. Allora togliamo i navigatori, togliamo la possibilità di ascoltare la radio perché bisogna sintonizzarla. No, per carità, perché? Togliamo la possibilità di parlare al telefono, perché il problema non è il viva voce, è come faccio a fare il numero di telefono o come faccio a rispondere al telefono senza distogliere gli occhi dalla guida. No, quindi se non c'è questo buon senso, a parte il fatto che poi qui è stato usato un argomento fondamentale da una signora, mi pare, il proibizionismo, ragionateci per favore cari ascoltatori, non impedisce un certo comportamento, lo rende illegale e intorno a questo fa maturare un mercato della clandestinità che è 100 volte superiore a quello legale. Questo si applica per le sigarette, si applica per molte droghe, si applica per la prostituzione, fenomeno che esiste come sappiamo da millenni, che viene formalmente proibito, che invece continua ad esistere e muove giri d'affari enormi, che anziché essere nelle mani di quello Stato o di quei privati legittimi che magari non amiamo molto, finisce per essere nelle mani di sfruttatori, criminalità, creare somme enormi di denaro che poi vengono riciclate in altre attività illegali. E ecco, e quindi i rimedi presunti provocano 100 volte i problemi che vogliono risolvere. E già immaginiamo naturalmente il mercato nero dei portasigarette, e dei copripacchetti, naturalmente, magari venduti come copritelefonini o cose di questo genere. 9 in punto. Sentiamo ancora Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda. Ho sentito che l'impronto per lo Stato è legato al commercio del fumo di 14 miliardi. Mi interessava sapere quant'è invece la spesa che il Sistema Nazionale di Sanità deve sostenere per affrontare le patologie legate al fumo. Guardi Marco, ne abbiamo già parlato un attimo fa con Sirchia, il problema è proprio come vengono calcolati questi dati, che cosa ci si mette dentro, se ci si mette dentro anche Le dico, per esempio, sul sistema, dal punto di vista sociale, il tempo che uno perde in termini di produttività per andare a fumarsi una sigaretta fuori. Dipende da che dati ci metti dentro, su quella base, e anche dal punto di vista sanitario dipende da quali dati ci si mettono dentro. Si oscilla tra i 3 e i 7 miliardi a seconda dei calcoli. Come promesso, però, apriamo una finestra sulla vicenda Shalabayeva, adesso quasi in chiusura di trasmissione. Riccardo Olivo è il legale della signora espulsa dall'Italia insieme alla figlia di 6 anni, un caso che, come vi avevamo già detto martedì, sarebbe diventato centrale nelle vicende politiche perché sta arrivando un coinvolgimento ai più alti livelli, tanto che oggi la Repubblica chiede le dimissioni del ministro Angelino Alfano per questa vicenda. Ci sono molti dubbi su quello che è avvenuto, sulla catena di comando al momento, su quanto le informazioni siano passate al ministro e siano arrivate al ministro e quante non siano effettivamente arrivate. Ci sono dubbi anche su quante informazioni siano arrivate al ministro Bonino e quante non siano arrivate. Parliamo naturalmente ancora della vicenda della donna, moglie del principale dissidente kazako. Allora, avvocato Olivo, buongiorno. Buongiorno a voi. Si era parlato nei giorni scorsi di la donna adesso è in Kazakistan, lo sappiamo, non è agli arresti, ha l'obbligo di dimora, se non erro, presso la casa del padre. Si era parlato di un viaggio del vostro studio, di qualcuno del vostro studio legale, non so se lei stesso in Kazakistan. Ma qualunque iniziativa al momento è ancora allo studio, è del tutto prematura, nel senso che dovremo vedere e coordinarci senz'altro anche con dei colleghi che lavorano in quel paese, degli avvocati di lì, perché non sarà una cosa semplice, ma sicuramente se sarà necessario io confermo ovviamente la disponibilità mia e del nostro studio di recarci anche ad Almaty, ma il problema è appunto dover vedere esattamente quali passi si possono fare e se la cosa effettivamente presenta dei caratteri di utilità. Avvocato Olivo, secondo lei c'è una qualche possibilità concreta che la donna riesca a tornare in Italia, che Shalabayeva e la figlia riescano a tornare in Italia? Ma io francamente me lo auguro, come tutti ritengo, ma la difficoltà allo Stato che in qualche modo le autorità kazake hanno anche confermato pochissimo tempo fa è data dalla circostanza che appena è sbarcata in Kazakistan le è stato notificato un avvio di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale per accertamenti in ordine a dei fatti dei quali non abbiamo nessuna migliore evidenza al momento, ma che sarebbero a lei in qualche modo attribuiti, e quindi l'esistenza, diciamo, e la pendenza di una eventuale indagine lì complicherebbe indubbiamente le cose, nel senso che le autorità legittimamente potrebbero dire: ma dobbiamo svolgere degli accertamenti e quindi la signora non può lasciare il paese. È quasi impossibile, mi sembra di capire dalle sue parole, che Shalabayeva possa tornare in Italia, insomma. Ma impossibile no, perché insomma, per esempio, ecco, se noi rapportassimo la cosa ai nostri al nostro sistema giudiziario, no? Al nostro sistema penale, il fatto che ci sia la pendenza di un procedimento penale, di accertamenti, di verifiche nei confronti di una persona, non è che da noi automaticamente vieta che questa persona possa lasciare l'Italia, soltanto nei casi in cui l'autorità giudiziaria per qualche motivo ritiene che debba essere emesso anche un provvedimento di limitazione, insomma, della libertà di espatrio, lo deve fare espressamente. Adesso ovviamente io non conosco il sistema giudiziario del Kazakistan e non so come sia disciplinata questa fattispecie, però potrebbe essere benissimo che le autorità non ritengano indispensabile per compiere i loro accertamenti, come non lo sarebbe per noi, il fatto che la signora resti lì. Da quel che vi risulta, avvocato, c'è il rischio che vi sia qualche forma di violenza nei confronti della signora? No, non abbiamo nessuna evidenza di questo genere. Se lei intende violenza sotto il profilo fisico o limitazioni dirette della libertà. Certo, una cosa abbastanza inquietante è che nei giorni immediatamente successivi al rimpatrio, a questa espulsione tanto discussa, è girato addirittura in internet un video, uno che rappresentava la signora Alma con la bambina che scendevano dall'aereo e andavano verso una macchina, diciamo così, di Stato, e un altro ancora più inquietante che ritraeva e che ogni tanto passa anche in video nelle nostre emittenti, la signora con la bambina mentre stanno in casa, il che significa che, ecco, se voi volete includere anche le intromissioni indebite nella vita privata delle persone come forme di violenza, ecco, questa indubbiamente c'è. Non ce ne sono, da quanto mi risulta, altre, cioè c'è un controllo molto attento che invade anche la sfera della privacy, diciamo. Bene, allora dunque, avvocato, io la ringrazio per essere stato con noi e noi sicuramente torneremo ad aggiornarvi su questa vicenda, come naturale, in attesa che arrivi sul tavolo del ministro Angelino Alfano la relazione che ha chiesto ai vertici della polizia, in attesa che giovedì prossimo lo stesso ministro dell'interno in Parlamento chiarisca, almeno dal punto di vista del ministero dell'interno, come sono andate le cose, e posti tutti i dubbi che permangono sulla vicenda, e sono quelli che si dicevano in apertura. Se il ministro dell'interno sapeva, è grave. Se qualcuno ha agito al di fuori del perimetro del ministro dell'interno, è altrettanto grave, perché ci sono delle strutture che operano al di fuori, evidentemente, del controllo del ministro dell'interno. Ancora di più, se ci sono degli elementi di cialtroneria, come è anche probabile, in tutta sincerità, da quello che leggiamo in giro, questo è altrettanto grave, la cialtroneria non è una scusante. Chiudiamo qui questa trasmissione, ringrazio Chicco Testa e Girolamo Sirchia per essere stati con noi, chiedo scusa di Ivan dalla provincia di Torino, Dario da Milano e tutti gli altri per non essere riuscito a farli intervenire, ma ci sembrava doveroso chiudere parlando di questa vicenda. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marcotulli in redazione, a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 77 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.